Nel grande spazio di un prato sconfinato, dove non si distingue l'orizzonte e dove il sole splende. C'è tanto verde da far male agli occhi. Nessuno può prendermi e toccarmi. Nessuno. Corro libera, con l'odore forte dell'erba che entra nella pelle. Il coraggio non mi manca. Non ho bisogno di cibo rancido e di pietà. Come adesso. Armonia e perfezione. Come adesso. I piedi nudi toccano il prato docile come la seta che mi sorregge e mi rispetta. Correre e fondermi. Fuori dalle ombre. E starci il più a lungo possibile. Non voglio che tutto questo finisca. Luce. Come ora. Solo questo. La mia corsa folle fa traballare il cuore, la mente si stacca, ho la bava alla bocca, intravedo a est i boschi di betulle, la velocità è come quella di un treno senza freni che non conosce più l'itinerario. Lanciarmi è il desiderio, ma temo la destinazione. Donna e fiera, il coraggio non mi manca. Avverto una specie di cambiamento fisico. Ha a che fare con la postura. Mi sento più allungata nelle vertebre e un impulso energetico si insinua nella spina dorsale. Sono più eretta. Come si rese conto un uomo primitivo a cavallo di un importante passaggio evolutivo. Spero un giorno anch'io di collocarmi sulla terra in un altro modo. Tornare a far parte del mondo verde. È questo il piccolo desiderio. Terra e radici. Ti prego, Signore misericordioso, di non illudermi. E se vuoi far di me un mandorlo in fiore, un bene, ma frena i venti. Non voglio perdere i boccioli al primo alitare dell'aria. Non farmi perdere la luce e la bellezza in un solo istante. Il coraggio non mi manca. Mi chiamavo Bea, o perlomeno mi sembra fosse così. Una ragazza, come si dice, di buona famiglia. Ho sempre studiato sodo e ho avuto un'educazione rigida e fortemente cattolica. E questo grazie soprattutto a te, madre superiora. Francesco, mio padre, un uomo ricco e potente, ha fatto il resto. Io ero cosa sua. A 4 anni ho iniziato a sognare figure non distinte e nulla era chiaro. Ma i giorni successivi mi ritrovavo addosso quelle ombre che attribuivo ai sogni. Arrivava di notte a controllare che dormissi e per vedere meglio si tirava fuori dalla bocca l'anima verde fluorescente. Poi la impugnava come fosse il manico di una lanterna e la portava vicino al volto per guardare se gli occhi fossero chiusi. Rimaneva nell'oscurità a vegliare, sedendosi sul davanzale della finestra. Poi all'alba se ne andava per tornare la notte seguente. Ma durante quel buio, un odore acre riempiva la stanza. Un odore che mi ricordava la carne cruda, battuta e fatta a brandelli. Una carne scannata e lasciata sul bancone di macelleria per giorni. Intanto il buio si faceva sempre più cubo. Un buio interrotto solo da macchie, create dagli occhi chiusi. E troppo serrati per la paura, scosse elettriche incolori, le stesse che può percepire un cieco. Gli odori, le macchie e le ombre finirono per essere una parte di me e le portai dentro per sempre. Eppure sapevo che il visitatore notturno rivideva ogni volta l'atto per tutto il giorno successivo e ad ogni momento. Gli dava piacere ricordarlo, ma solo fino alla sera seguente. Però poi il solo ricordo, giunta la notte, non bastava più e doveva tornare. La vita continuava, accompagnata da Cristo e da te, Madre Superiora, a cui iniziavo ad aprire il cuore. Hai sempre intuito qualcosa di più, ma la colpa è mia. Non ti ho mai parlato fino in fondo, perché neanche io ero a conoscenza di ciò che la mia anima stava elaborando, e forse anche per pudore, nei miei e nei tuoi confronti. Un giorno, trovata la forza, provai a scriverti una lettera dove tutte le mie sensazioni venivano descritte nei minimi particolari. Da lì forse avresti potuto capire la causa delle mie agitazioni interiori. Eri o non eri nata per entrare in contatto con la spiritualità del prossimo? Ma so che quella lettera non ti è mai arrivata. Intercettata o distrutta. E da chi poi? Non lo saprò mai. Mi innamorai del maestro di pianoforte, Fiedor. Era un ragazzo slavo, gentile e sensibile. Con lui avrei voluto ballare, ballare all'infinito una danza vorticosa che ti fa volare via per sempre nelle ampie distese dell'est. Ma lui sparì di colpo, inspiegabilmente, dalla mia vita. L'ho cercato per anni, ma non sono riuscita più a trovarlo. Anche a lui scrissi una lettera dichiarando la mia passione, ma non ricevetti mai nessuna risposta. Ho passato anni ad attendere invano. Mio fratello intanto cresceva, ma cresceva male. Non ha mai avuto nulla da mio padre. L'unica cosa che riuscì ad ottenere fu un viaggio studio in Spagna, ma solo perché lui lo voleva allontanare da me e dalla sua vita. Giacomo perse i soldi e mio padre lo costrinse a tornare da Madrid senza una lira e con mezzi di fortuna, più morto che vivo. Aveva già iniziato a bucarsi e quando tornò a casa lo fece con maggiore frequenza. A volte non riusciva a tenersi in piedi. I piedi. I miei non mi hanno mai abbandonato. Mi hanno sempre sostenuto. Quelli di mio fratello erano così deboli. Me ne accorsi un giorno, d'improvviso, quando si presentò in camera mia. Era carnevale e si era travestito da indiano Sioux. Saltellava e gridava per farmi ridere. Era buffo davvero. Poi mi chiese se mi piaceva vestito così. Quando lo squadrai per dargli un giudizio, mi accorsi delle sue scarpette di pezza color ruggine. E i suoi saltelli mi avevano turbata. Muoveva i piedi da bambino indifeso. Mi venne da piangere e lo abbracciai coprendomi il viso per non farmi accorgere. In quel momento mi resi conto di quanto lo amassi. Un'altra volta, in un funerale, era morta la madre di una mia compagna di classe. Mi ricorderò sempre di come sbatteva i piedi il padre della mia amica. Aveva 60 anni e da come dimenava il corpo, sbattendo i tacchi in segno di protesta per quell'assurda perdita, mi sembrò di comprendere tutta l'inadeguatezza dell'uomo nei confronti della vita, e tutto questo attraverso il solo movimento dei piedi. Marcire in una tana. Eccolo il destino. Ceci, pollo, minestra e pane duro. E quando va bene, frutta marcia. Non ti sembra poco con tutti i soldi che hai accumulato, Madre Superiora? Lo so che sei lì dietro, ce l'ho con te. E tutti quelli che ti ha dato mio padre per educarmi, e tutti quelli che avrai, ci pensi? Nessuno può più difendermi. Né fratelli né madri. Non voglio soldi. E neanche cibi da regina, pretendo solo che siano freschi. Che non somiglino a pareti muffe, al buio, alle luci artificiali, lo so. È lontano il periodo dello svezzamento. E ciò che è stato è stato. A questo punto posso sentire il soffio del vento. A volte, anche se poggio l'orecchio sulla parete, lo sento, il fischiare freddo. Ma qui c'è un incrocio di correnti. In questo momento della giornata, alcune piccole crepe nelle pareti si allineano. Certo, c'entrerebbe a malapena un filo, talmente sono piccoli i fori, quasi invisibili. E a volte penso che se l'aria che entra da fuori fosse di un colore diverso rispetto a quella che respiro qui, scoprirei delle forme inaspettate. Ma forse, pensandoci bene, creerebbe solo qualcosa simile a una rete. E allora la cosa più bella rimane quella di sentirla addosso e respirarla fresca e tutta. Fuori di qui i venti soffiano e si rincorrono. E quando piove si sposano insieme. E l'acqua scende come la semenza sulla terra o viene gettata in aria e ti arriva in faccia come nelle benedizioni. Ho visto stelle e anche il sole, lo ricordo, e ricordo i fiori, i profumi, quello della rosa e tramonti e nubi rapide o lentissime nel cielo, ma anche pietre e rubini ho visto, fatti di luce, anche se non avevo mai pensato come ora alla fatica di quell'uomo che scova la pietra grezza nella miniera. Avrà avvistato una luce dopo anni di tenebre, dopo essersi sentito perso, morire nei budelli della terra. La terra stessa che lo ha creato per sorreggerlo e nutrirlo adesso lo rigetta improvvisamente in basso, nei suoi intestini, nel suo ventre buio. Ma dopo tanto soffrire, ecco che spunta un bagliore. Prima fioco, poi sempre più forte, accecante. Il primo bagliore, ecco il dono. Quello che conta è il primo bagliore. Il secondo e il terzo non sono più la stessa cosa. La luce più bella è forse quella che non potresti mai trovare al chiarore del sole. La luce più bella la scovi negli angoli più oscuri, perché ti dà la certezza, donandoti quel lampo, che qualcosa di sublime è lì sepolto, pronto ad incontrarti nei momenti più difficili. Ma anche io vedo granuli che brillano attaccati alle pareti quando una luce fioca filtra dalla porta e sfavilla solo per me. Polvere di cemento che scintilla per me come cristalli di sale al sole e mi sfiorano, a volte come una dolce carezza. E allora refoli, piccole luci false, mele marce, acqua stantia, formiche, a voi lascerò tutto quello che ho, appartamenti, terreni, castelli, e per arrivarci non dovrete fare nessun passo falso. Regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede e con l'anello? 4 passi da formica. 4 passi da formica. Regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede e con l'anello? 2 passi da leone. 2 passi da leone. Regina, reginella, quanti passi devo fare? 5 passi da Camperon, 5 passi da Camperon, 5 passi da Camperon, Regina, quanti passi? trovo in macchina con mio fratello. Non è tranquillo. Ha bisogno della roba e deve prenderne un po' giù in città, nella piazza giusta. Cerco di dissuaderlo, ma senza risultato. Corre, schivando le altre macchine. La sua auto è come una palla da bowling lanciata da mani inesperte. Io e mio fratello siamo nella stessa sfera incontrollata che sfreccia e vola, ma con troppi vuoti d'aria intorno. Prendiamo una stradina di campagna e tutto sembra placarsi. Ma proprio quando il peggio sembra passato, un tonfo sordo ci costringe a fermarci. Apro la portiera e scendo. Mio fratello è immobile, con gli occhi aperti, incapace di reagire e perso nei suoi fissi pensieri da tossico. Davanti l'auto, una scia di sangue rosso, più rosso del rosso mai conosciuto, segna un percorso che mi conduce fino al corpo di un cane. Inizialmente la bestia è ancora in piedi, ma poi si accascia a terra, vomitando magma bianco. Mi avvicino per capire se ci sia la possibilità di salvarlo, ma il cane si è disteso solo per mostrarmi la grossa ferita sul ventre, da cui fuoriescono le viscere. L'odore mi trafigge come una lama arrugginita. È un coltello scheggiato che si è infilzato, centuplica il dolore. Ciò che mi trafigge non è adatto nemmeno più al dolce taglio di una fetta di pane. Ho una morte più mite. La notte successiva sognai di trovarmi in volo su un aereo, uno di quegli apparecchi piccoli per pochi passeggeri. Sopra c'ero io, Giacomo e Lucrezia, la mia matrigna e seconda moglie di mio padre. L'aereo sorvolava Roma e a volte si abbassava così vicino alla città da poterne scorgere le strade. Le vie e i luoghi che riconoscevo erano le mie preferite. Via del Giglio, Santa Pollinare, la statua del Pasquino. L'aereo era pilotato da Giacomo. Si abbassava e si alzava pericolosamente. Io ero preoccupata, ma loro invece ridevano, come se quell'andatura fosse un fatto normale e innocuo. E quando ti raccontai quel sogno, mi dicesti che era evidente il percorso pericoloso che Lucrezia e Giacomo avevano intrapreso. Ma la cosa su cui dovevo riflettere di più era perché mai mi trovavo nella loro identica situazione di pericolo. Gli ero legata in modo malsano. E questo non era un bene. Dopo pochi giorni, mio fratello muore per un'overdose. Andai da mio padre per cercare conforto, ma aveva lo sguardo di ghiaccio. I suoi piedi erano fermi, immobili, e non esprimevano nessun sentimento. Quando ero bambina pensavo che da grande mi sarei chiamata in un altro modo. Bea era un nome da bambina, una bambina cattiva, che fa diventare crudeli gli altri. Mi dicevi, mi ripetevi, che se fossi stata dolce, obbediente, ben presto, come una ricompensa speciale di Dio, non solo avrei udito e visto tutto con maggiore chiarezza, ma avrei anche capito il senso intero della mia esistenza. È notte. La porta della mia camera si apre di colpo. E dall'oscurità il mio sguardo si perde nella visione dell'immenso ingresso di casa. Una luce calda illumina l'uomo meccanico, un ritratto futurista con il quale fin da piccola ero abituata ad intrattenermi. Ricordo che mio padre Mi ripeteva fino allo spasimo che non dovevo avvicinarmi così a quel ritratto perché era pericoloso e mi avrebbe fatto una magia. Ma io ero rapita da quel dipinto. E mi ci avvicinavo quasi faccia a faccia, salendo sulla sedia per guardarlo negli occhi. E a volte, quando ero sola, mi ero accorta che aprendo l'anta dell'armadio, quello con lo specchio, potevo far riflettere il quadro moltiplicandolo mille volte, cercando di capire quale fosse il mio tra i tanti, quello nato esclusivamente per me. Ma quando crebbi, mio padre mi disse la verità. Non era vero che faceva magie, ma quel quadro valeva un occhio della testa e dovevo stare attenta anche solo a sfiorarlo. Per me sarebbe rimasto per sempre l'uomo che poteva fare una magia. Anche se lo vedessi adesso, me lo aspetterei. Lo contemplavo, sperando che mi rivelasse qualcosa. Ero certa che prima o poi avrebbe parlato, che mi avrebbe detto qualcosa di importante. E forse quella notte sarebbe stato il momento giusto, perché mi guardava nel profondo e sembrava sapere ogni cosa di me. Invece, dopo circa un'ora, la porta si richiuse e non accadde più nulla. La notte successiva, la porta si riaprì di nuovo. Avevo il cuore a mille. L'uomo meccanico era sempre lì. Francesco, mio padre, si materializzò come un fantasma nella stanza. Gli chiesi di Lucrezia, ma lui disse che non era mia madre, non si poteva occupare sempre di me. Io, in verità, l'avrei voluta accanto in quel momento. L'ho sempre sentita amica e dalla mia parte. Mio padre mi guardava fisso. Poi d'un tratto rivolse lo sguardo fuori dalla finestra. Bisbigliava parole incomprensibili. E mi chiesi cosa stesse dicendo. Mi rispose come se avesse ascoltato il mio pensiero. Che? Disse, senza guardarmi, continuando a scrutare fuori verso il chiarore della luna ormai quasi piena. Niente, replicai. Allora si inginocchiò accanto a me e dopo un lungo sospiro che sembrava aver trattenuto il mondo intero, iniziò a pregare e mi invitò con un gesto a fare altrettanto. Io sentivo freddo e mi avvolsi nelle lenzuola, poi mi lasciò pregare. Appena terminato l'atto di dolore, ecco, mi disse, abbiamo pregato insieme. Era solo questo che volevo da te. Non lo facciamo mai. Forse lo abbiamo fatto molti anni fa, ma tu eri troppo piccola e non lo puoi ricordare. Però le tue mani giunte e strette in preghiera sono sempre le stesse e fanno pensare a quanto fervore, a quanta passione tu abbia. Il suo sguardo era vacuo e non riuscivo a capire, ma sentivo un forte fuoco che partiva dalla bocca dello stomaco e provavo un profondo senso di vergogna. L'ho fatto per Giacomo, gli dissi. Lui mi rispose immediatamente, certo, l'ho fatto seppellire qui vicino, proprio per essere sicuro della sua presenza. Poi si alzò, mi diede un ultimo sguardo e se ne andò, mettendo fine a quell'atmosfera irreale che si era venuta a creare. Non ricordo bene quanti anni avessi, ma ora comincia ad essere più chiaro tutto. Tutte le ombre che mi porto dietro da sempre. La mattina seguente sentivo che avrei dovuto fare qualcosa, ma la paura di mio padre bloccava ogni mia iniziativa. Il solo pensiero di dover raccontare le mie sensazioni a qualcuno mi terrorizzava, anche perché mi avrebbero presa per pazza. Mi guardavo allo specchio per capire come mi vedeva la gente. Il mio viso bianco, i miei occhi, il mio sguardo fisso non mi rendevano credibile, anzi, mi rendevano colpevole, ero certa. Corsi come sempre alla cassetta delle lettere. Speravo di trovare il conforto, forse tuo o di Fiedor, il maestro di musica. La sera dopo mi gettai sul letto tutta vestita. Alla solita ora la porta si aprì. Questa volta Lucrezia si trova in lontananza. La intravedo accanto al quadro. Da lontano ci scambiamo uno sguardo che mi lascia intendere sostegno e questo mi calma momentaneamente. Mio padre me la indica. Inizio di nuovo a pregare, ma lui mi prende le mani e ricordo una vertigine, una torsione del collo e del volto. I miei occhi ruotano e pulsano forte assieme al cuore. Cercano Lucrezia, ma lei non c'è più. Oddio, come invidiavo mio fratello, che si metteva l'ago in vena e si sentiva davvero il figlio di Gesù. E riusciva a sentirsi un uomo in quel momento, con l'ago in vena, la roba in circolo. Non gli importava più nemmeno di morire. E carne si stringono in una presa che crea materia, dalla quale esce un sussurro che mi invita a sanguinare e a mischiare il sangue dal cui legame possa nascere un figlio immortale come l'anima dei santi. Cerco delle foto in camera di mio fratello. Provvisto nei cassetti. E fra i suoi ricordi trovo la polvere bianca in un vasetto. La roba che gli ha dato la vita e la morte. Penso che non sia un caso. È l'ultimo messaggio di Giacomo. Un invito a farne un buon uso. Me ne metto una punta sulla lingua per conoscere da vicino ciò che lo ha fatto volare via. Il sapore aspro e amaro mi colpisce con un brivido sulle spalle. Poi la prendo e la metto in tasca. La polvere, dall'apparenza innocua come la cipria, è lì ferma, ma disponibile come una puttana appena pagata, pronta e consapevole dell'orgasmo che porta in sé. La verso su un piattino e la guardo, quasi interrogandola. Subito si distende languidamente. Davvero, come una creatura dalla sessualità estrema, toccata nei punti giusti. Quindi sei tu che porti via le persone facendole innamorare così. Eppure so che posso impadronirmi di te e usarti come meglio credo, soprattutto perché molti hanno già pagato. Troppi. Il vino rosso è nella caraffa di vetro. La polvere candida scivola dentro con un movimento rapido delle mie dita e si scioglie immediatamente. Avverto la presenza di qualcuno. È lo sguardo di Lucrezia che mi sorprende in quell'atto. Sì, è lei. Ma non mi dice nulla, anzi, fa fa finta di niente. Durante la cena prendo solo acqua e verso 4 bicchieri di vino a mio padre. Chiedo anche a Lucrezia di prenderne un po', ma solo per non destare sospetti. Lei rifiuta. Già sa tutto e basta uno sguardo per intenderci. So che Francesco mangia svelto, voracemente, e si sporca la barba senza decenza. Ma solo quando è a tavola con noi. Un'ulteriore dimostrazione di potere nei nostri confronti. Può insozzarsi davanti a me come fanno i porci, per sottolineare e farmi riflettere sulla mia incapacità di reagire. Può grugnire e farsi sotto col suo lurido muso, tanto da farmi sentire il suo fiato fetido e non subire nessuna disapprovazione. Avrei dovuto sopportare tutta la vita tenendomi tutto dentro. Ma il vino lo ingurgita senza il minimo sospetto. Questo è importante. Aspetto mezz'ora. Poi vado nello sgabuzzino, dove ci sono gli attrezzi. Entro in camera sua. Il coraggio non mi manca. La luce dei lampioni della strada irrora la stanza a sufficienza. Stordito com'è, dorme profondamente. Tengo in mano un grosso martello e 2 chiodi grandi come quelli della Passione di Cristo. Non attenderò che si spengano le luci e non avrò paura di smorzare la tua. Ciao, papà. Ho detto le preghiere stanotte e ho messo il vestito più bello, quello di mamma. Ricordi? Poso un chiodo verticalmente sull'occhio del vecchio porco. Picchio col martello. Il chiodo penetra nella testa. Poi gli conficco il secondo nella gola, di modo che la sua povera anima viene strappata dal corpo che adesso si dibatte sulla terra dove è caduto. Si muove a scatti, come la coda mozzata di una serpe. Tenta persino con le ultime energie di togliersi il ferro dall'occhio, ma poi le forze cessano e, scivolando e annaspando nel suo stesso sangue, butta fuori l'ultimo respiro e rimane fermo, immobile, per sempre. A volte penso che se il destino ti avesse condannato come un malato di Alzheimer e costretto a dire solo parole senza senso, se ti avessi conosciuto immobile, infermo, senza il dono della logica e capace solo di dire assurdità. Bea, metti le chiavi di casa dentro un vaso di gerani. Bea, poni una forchetta d'argento sul selciato. Bea, bevi il sangue di una capra. Allora avrei preso quelle chiavi fra le mani fino a farle divenire gioielli cesellati e non le avrei messe in un vaso di gerani se non prima di averlo pulito con l'acqua benedetta. E avrei messo la forchetta sulla strada che dopo l'atto sarebbe divenuta un santuario, una lingua d'asfalto sacra. Avrei bevuto il sangue di una capra come fosse quello del Signore. Avrei cercato di comprendere il senso delle tue parole fino in fondo. Invece, tolgo i chiodi dalle ferite, copro il cadavere con un lenzuolo e lo trascino attraverso tutte le stanze fino ad una piccola terrazza da cui poterlo scaraventare in un giardino abbandonato. Morto per un banale incidente, mentre si recava di notte a prendere aria in terrazzo. Quel parapetto è sempre stato in attesa di manutenzione. Francesco di solito, dopo aver bevuto molto, ci andava sempre per rinfrescarsi, appoggiandosi pericolosamente alla balaustra, quasi a sfidarla. Sfidava tutto e tutti. Prima di perdere i sensi, ricordo con esattezza la telefonata che la governante ti ha fatto. Sì, proprio a te, suor Anna, madre superiora. Invece di avvertire la polizia, ha chiamato te. Morto mio padre e scomparsi tutti gli eredi diretti, l'accesso al patrimonio destinato al tuo istituto è cosa fatta. Così, quando mi svegliai, ero già qui. Lo so, non è il modo migliore per confessare. Avreste preferito un'altra maniera. Mi avreste rasato i capelli, legato le mani dietro la schiena e prima di issarmi su per mezzo di una carrucola, interrogata. E se non avessi confessato, alzata fino in cima e poi tutti insieme avreste intonato un paternoster, poi di nuovo interrogata. E se non avessi confessato, mi avreste stata così in alto da farmi perdere i sensi. Poi un canto, un'Ave Maria, gettandomi dell'acqua gelida sul volto. Mi avreste riaggiustato le spalle ormai dislocate e ricominciato da capo. Fino all'esasperazione, senza tregua, non lasciandomi mai tempo, come io non ho lasciato tempo a mio padre di presentare qualche difesa. Mi avreste fatto baciare il crocifisso e le piaghe di Cristo per morire in modo degno da poter ricevere l'assoluzione, magari con una bella processione, e percorrendo vecchie strade di Roma, via del Pellegrino, via di Monserrato e giù per via dei Banchi Vecchi fino a Tordinona, per arrivare infine sul Ponte dell'Angelo. Solo allora avreste dato l'ordine di staccarmi la testa con un bel taglio netto per non soffrire, in modo che tutta la gente potesse vedermi e giudicarmi, per poi cantare una messa dopo avermi sepolta nella chiesa dove sono stata battezzata, perché Dio mi conceda la pace. E per dire che l'unica mia colpa è quella di essere nata, invece di dire che sono stata uccisa da un uomo che riconosce alle donne il potere di generare, ma le odia perché non possono salvarlo dalla morte. Forse è tutto lì, il rancore.